pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Già immagino questa mattina gli ammiccamenti, i doppi sensi, le reprimende per l'argomento che sto toccando. Io l'ho annunciato pochi istanti fa su Facebook, già mi è arrivato l'SMS di un'amica che ironizza, prende in giro e scherza. Non c'è nulla di autobiografico, non c'è un desiderio di proporre modelli correnti di alternative alle proprie situazioni personali. Questa mattina però vorrei riflettere su una vicenda che mi è stata proposta da un ascoltatore. Ci ha chiamato un nostro ascoltatore e ci ha sottoposto quella che è la sua vita. Lui vive con due famiglie, ha due mogli, con entrambi ha dei figli, tutte e tre le persone di questa organizzazione familiare sono perfettamente consapevoli del fatto che sia una famiglia allargata. Non esiste tra di loro il problema delle separazioni, degli alimenti, dei divorzi, delle compensazioni. È semplicemente un modello diverso, un modello che anticipa e pone probabilmente le premesse per quella che già molti osservatori del futuro considerano una possibile evoluzione di quello che è il nucleo fondamentale che oggi, su cui oggi è articolata la nostra società. Sulla famiglia, su una famiglia monogama tra un uomo e una donna che possono fare un patto di vita assieme, un patto basato sull'affetto, sull'amore, sull'ipotesi, perlomeno la volontà di fedeltà reciproca, poi si organizza naturalmente la società, si organizza l'economia, si organizza il lavoro, si organizza l'urbanistica, le città sono create su misura di questo tipo di nucleo familiare. Ma alcuni osservatori, alcuni pensatori dicono che in realtà questo è un modello passeggero, transeunte, non destinato ad essere il modello più razionale di organizzazione della società. La società potrebbe riorganizzarsi su modelli più naturali, in cui le persone vivono come delle comunità allargate, in cui ci si divide i compiti, gli oneri, gli onori, i piaceri e i dispiaceri. Ho 51 anni, dopo circa 5 anni di matrimonio, 6 anni, sui 35 anni fu l'incontro con l'anima gemella, cioè questa anima gemella dove tutto va bene, tutto si va d'accordo. A un certo punto abbiamo valutato, meditato e cercato di capire di far meno danno possibile alla mia compagna che era sposata con me. E a quel punto lì cosa abbiamo fatto? Abbiamo valutato i pro e i contro, non erano amiche ma si conoscevano. E sono 17 anni che sono con la mia compagna e 25-24 anni che sono con mia moglie, dall'età di 22 anni fino a 50, perciò ho perso anche il conto. Non è un'avventura che è nata ieri, dura un anno o due, poi cioè oramai è consolidato, fisso e vediamo la vecchiaia come qualcosa di dire un giorno giocheremo a carte in tre, per dire. Sono diversi i livelli di lettura. Qualcuno potrebbe dire, beh, facile per voi uomini, tutti voi uomini vorreste l'arem intorno. Qualcun altro potrebbe dire, ma già esiste comunque un concetto di poligamia diffusa, però è mascherato, è nascosto, messo in sottotraccia dall'ipocrisia, dall'ambiguità, dal mantenere una o più relazioni insieme. O come mi scrive in questo momento Silvia su Facebook, dice, quello che spinge le persone ad avere più di una relazione contemporaneamente è l'idea della trasgressione, di potersi creare uno spazio al di fuori della realtà di tutti i giorni. La poligamia riporta in realtà queste relazioni molteplici allo scoperto, diventano la stessa realtà, che non è proprio la stessa cosa. Infatti, su questo vorrei soffermarmi. Non è una scelta di lussuria, una scelta di trasgressione, è una scelta di organizzazione razionale di un sistema di relazioni che non può essere basato o non è basato, come accade nella maggior parte delle situazioni, soltanto su un patto cementificato di fedeltà per la vita. Mi rendo conto di dire questo mette in subbuglio tutta una serie di sentimenti, di sensazioni, di certezze, però fare una fotografia della realtà e osservare alcune punte emergenti rispetto a un modello perlomeno in apparenza conclamato, accettato e condiviso, forse significa già gettare un occhio su quello che potrebbe essere il futuro. Ho un figlio a ambo le parti, un figlio sia con la prima che con la seconda, e a un certo punto ci siamo, diciamo, non riuniti tutti e tre, però prima con una e poi con l'altra, facendo da ambasciatore ambo le parti, si è concluso che era non conveniente o utile andare incontro a delle guerre di avvocati, di tribunali, facendo pagare degli innocenti le conseguenze. Quello che è stato importante in questa, diciamo, relazione a tre è vedere non oggi o domani, ma vedere addirittura il futuro. E il futuro era vedere anche i 50 anni, 60 anni. C'è di mezzo le pensioni, c'è di mezzo i beni e c'è di mezzo anche i sentimenti. 800 24 0024, cominciate a chiamare, a dire la vostra, a raccontare della vostra esperienza, a raccontare quanto molte volte sia doloroso, sia faticoso, sia lancinante dovere fare i conti con quella che è una aspirazione di tipo sentimentale, di tipo amoroso o di tipo razionale, quante volte uno vorrebbe lasciare tutte le strade aperte, quanto questa possa sembrare una situazione di comodo, di mero egoismo. Chi è questo signore? È il sultano dell'harem, ne vorrebbe due, ma perché soltanto due, 10, 15, 20? Ma non è esattamente così, almeno per quello che posso avere di esperienza, di riuscire a intrasentire l'essenza delle persone attraverso il tono della loro voce, l'emissione delle loro parole, mi sembra di capire che questa non è che sia stata una scelta di puro piacere, di pura trasgressione. È stata una scelta razionale. Ci si è messi di fronte a un tavolo e si è detto: beh, io a questo punto ho trovato la donna, l'amore della mia vita, non me la sento di distruggere quello che avevo costruito, che avevo messo assieme, quindi troviamo una via di possibile compromesso. Chiaro, un compromesso in cui qualcuno ha guadagnato moltissimo, sicuramente l'uomo che ha a disposizione due donne, ha un'alternativa comoda, tranquilla, in cui una è la donna della passione, dei sensi, dell'amore, e l'altra è quella della stabilità, della famiglia. Con entrambe ha fatto dei figli, con entrambe discute del futuro, della vecchiaia, della pensione, quindi è un progetto singolare, condiviso. Non è una semplice sopportare una relazione adulterina, una moglie o un marito che fa finta di nulla, sopporta in nome dell'apparenza, in nome della convivenza, in nome del non creare traumi. No, qui è un concreto, reale progetto di struttura sociale. Sanno tutte e due che ho rapporto con tutte e due, perciò non ho mentito. L'importante soprattutto è il fatto di rispettare il piano umano. Io devo dire, per esempio, con la mia seconda siamo a 1000, se da 1 a 100 noi siamo a 1000, perciò non ci pesa niente, non ci pesa niente di questa situazione, perché davanti c'è sempre l'amore e il sentimento che si porta reciprocamente, il rispetto che si porta reciprocamente. Questo è l'aspetto probabilmente più pruriginoso. Tutti si domanderanno: ma come fanno? Vanno a letto tutti e tre assieme, separati? No, immaginate due nuclei familiari contigui, non vivono probabilmente sempre sotto lo stesso tetto, ma si conoscono, ognuno ha la casa sua, lui si alterna, come spesso siamo abituati a vedere nelle commedie comiche o nei film o nelle storie romanzate, le persone si dividono tra due famiglie. Qui non c'è sotterfugio, c'è una pianificazione del tempo, un po' come accade in certe società, in alcuni stati, in uno stato in particolare dell'America esistono una realtà legata a una certa convinzione religiosa che si cala nell'esistenza quotidiana, in cui la poligamia è ammessa. C'è stata anche una serie di telefilm interessanti l'anno scorso sui canali Sky, si parla di queste famiglie di mormoni in cui c'è un uomo con tante mogli che si dividono la giornata e si dividono i favori dell'uomo durante la giornata. È singolare sentirne parlare nelle nostre latitudini, soprattutto calato nella nostra cultura occidentale. Economicamente devo dire che fortunatamente si lavora tutti e tre, perciò si ha tre stipendi, hanno lo stipendio loro, lo stipendio mio, perciò lavorando tutti e tre diciamo che non si naviga nell'oro, però si vive felici, ecco questo è l'importante, si vive felici, cioè si dà più importanza ai valori umani, al rispetto reciproco, che mia moglie mi dice scherzando ogni tanto: fortuna che non siamo nell'Ottocento, sennò caro mezzo marito saresti al rogo, che scherzando mi chiama mezzo marito. La più gran parte dei problemi sono stati dovuti da questo non si fa, questo è peccato, cosa dicono le sorelle, cosa dicono. Infatti tutt'oggi parte della mia famiglia non ci parliamo più, proprio per questi fatti. Certo, in una famiglia è molto più facile tollerare che Esiste una coppia soltanto di apparenza, soltanto di facciata, il sapere benissimo che ognuno della coppia ha relazioni consolidate e parallele, nascondere sotto un velo di ipocrisia, mostrare un modello di aperta poligamia è sicuramente difficile. Ma questo, il fatto che io ve ne racconti, non devo dire, non vuol dire che lo abbracci completamente o consideri questo sia un punto avanzato rispetto a quello che potrebbe essere l'organizzazione familiare nel futuro. Volevo soltanto farvi capire, me ne rendo conto dalle telefonate che arrivano e dai segnali che sento attorno a me, che ci si comincerà a organizzare sempre più in questa direzione, quella che oggi viene considerata un'organizzazione sociale basata su qualcosa di imponderabile, imprescindibile, immisurabile, irrazionale come l'amore. In realtà andrà razionalizzandosi verso un sistema di mutuo soccorso in cui le persone allacceranno e costruiranno le loro relazioni anche in base alle loro necessità di comunque vivere una vita meno preoccupata, meno angosciata e meno sottoposta soprattutto al terribile morso dell'ipocrisia. Il motivo per cui forse si sono, diciamo, innamorate, affezionate e hanno deciso sta situazione perché come uomo mi sono emancipato. L'emancipazione dell'uomo cosa vuol dire? Che l'uomo ha vissuto per millenni sulle spalle della donna e oggi se l'uomo si vuole emancipare, la donna intelligente ti pesa e ti quadra e dice: io sono la tua compagna, non sono la tua serva. E quando si decide di vivere insieme è logico che io come uomo non mi vergogno, che so benissimo lavare i piatti, pulire per terra, lavare la casa, tenere in ordine la casa di in cima in fondo. È logico che se la tua compagna sta facendo i compiti con il figlio, è logico che tu devi preparare da mangiare e pulire casa, perché la donna non può pulire casa, prepararti da mangiare, far compiti con i figli e guardare la televisione, leggere il giornale o andare al bar con gli amici. Ecco dov'è l'emancipazione dell'uomo. Questa emancipazione ha fatto sì che queste donne mi rispettano e preferiscono dividermi che magari andare in cerca di nuove storie dove può imbattersi bene come può trovar male. Vi fa orrore, vi fa inorridire, vi suscita disprezzo e disgusto, o perlomeno vi fa venire la tentazione: questo potrebbe essere un modello. Vedete, non si tratta di un califfo, di un sultano, di un despota, se no non avrei nemmeno sottoposto la storia. Si tratta di un tentativo parziale e criticabile quanto volete di riorganizzazione del sistema familiare. Melog 2.0. Bisogna cercare di equilibrare, di ricordarsi i compleanni, le feste, cercare di abbinare magari se fai una settimana in più di qua, dopo fai recuperi di là, cerchi di equilibrare queste due cose, ecco. Non è facile, ammetto che non è facile, perché non è facile, però l'importante è il dialogo, ecco, parlare. Per mantenere questo equilibrio devi dare tanto, ma tanto non sul piano fisico o ormonale, devi dare tanto, ma tanto sul piano umano. E delle volte dico: ma non era meglio forse che rimanevo da solo? Vi stiamo sottoponendo la storia di un ascoltatore che in realtà a tutti gli effetti vive una famiglia allargata, consapevole, condivisa, una sorta di elasticità sentimentale, istituzionale, matrimoniale. Oggi si chiede l'elasticità, la flessibilità in tutti i campi, nel campo del lavoro, nei campi del pensiero, nei campi di ideologia. Lui applica la flessibilità nel campo matrimoniale. Questo naturalmente sta suscitando dibattito e polemica tra i nostri ascoltatori. Mi scrive Valentina che la poligamia istituzionalizzata gli appare solo una duplicazione o triplicazione o anche oltre dei problemi connessi alla becera quotidianità della coppia. A lei non interesserebbe, interesserebbe magari una coppia aperta. Daniele cita Bertrand Russell, dice: la struttura della coppia a due non avrà vita lunga, basterebbe leggere il saggio del 29, Matrimonio e morale, di Bertrand Russell. Ricordo che fu un filosofo che suscitò molta attenzione ma anche molta polemica solo per il fatto di aver ipotizzato che possa esistere un rapporto affettivo morale al di fuori dell'istituzione matrimoniale. Oggi si va oltre, non esiste più un'istituzione ma esiste una possibilità di razionalizzare le pulsioni affettive e la necessità di organizzare razionalmente la società. Ma perché voi non possiate pensare che questo è soltanto un desiderio sibaritico del sesso maschile, abbiamo l'ascoltatrice Margherita al telefono. Margherita, buongiorno. Buongiorno a tutti. Margherita, lei ha due uomini consapevoli entrambi dell'esistenza l'uno dell'altro, quindi a modo suo vive una situazione simile a quella del nostro amico. Sì, a modo suo, nel senso che a parte da molto meno tempo, però e con una con il mio compagno primo ho due figli, con il secondo no. E diciamo che non mi divido, prevalentemente vivo con i figli, però sì, tutte e due sono consapevoli del fatto che stiamo tutte e due con altre persone, che poi anche il mio compagno ha un'altra relazione. Quindi come organizzate la vostra vita? Lei dice la sera, io stasera vado a casa di sì, Pinco Pallino. Se non lo dico il giorno stesso è meglio. Cioè lo dice con anticipo? Sì, quanto posso, sì sì. Quindi vi organizzate la vita, è una situazione di condivisa bigamia da parte di entrambi praticamente, perché sì, avete un doppio rapporto di coppia, ma questo vi crea dei problemi dal punto di vista proprio della vostra emotività, dell'affettività, perché poi voi vivete anche assieme. Certo, non siamo liberi da qualsiasi tipo di gelosia, di attaccamento, di condizionamento, chiaramente. Sì, vengono fuori e io ritengo che siano cose che... siano cose che devo risolvere, cioè che siano delle mancanze o delle cose che uno addossa all'altro, per cui se ci sono, se mi vengono fuori ne parlo e vedo che a parlarne comunque questo sembra. Abbraccia una rosa di quattro persone che bene o male sanno che si dividono affettivamente l'oggetto della loro passione, del loro desiderio di stare sì, assieme. Io direi che si moltiplicano, perché questa idea del cuore che si divide a me funziona poco. Ma cos'è che si divide se non si divide il cuore? Io no, parlo si divide di... il tempo, però il cuore non è tanta stanze, che poi insomma se una stanza è presa poi non c'è più, non lo so come dire. Ma allora qual è la molla che fa sì che non abbiate seguito il percorso usuale delle coppie usurate? Cioè a un certo punto ci si lascia, ci si resta o buoni amici o nemici? Perché in noi ci sono delle cose che ci piacciono molto e che non sono esaurite, però in noi mancano delle cose che non si possono forzare le altre persone ad avere o a diventare, perché non ci sono, e però perché non trovarle e non andare a sperimentare da altre parti? Il mondo è tanto vario, è bello conoscersi. E insomma, poi un esperimento non è che una soluzione fatta o una formula. Comunque non ha nulla a che fare, mi scusi se entro nel particolare, con le coppie aperte, con gli scambismi, con le sperimentazioni fisiche, ecco, non è questo. No, non fa proprio per niente, no. No. Va bene, grazie Margherita. Elisabetta, buongiorno. Gianluca, ciao. Sì. Allora, mi sembra di aver sentito, sto solo in macchina e sto sorridendo, soprattutto dopo aver ascoltato il signore che racconta certi aspetti e soprattutto dal suo punto di vista sembra abbastanza credibile. Io sinceramente vorrei sentire che cosa pensano i figli e che cosa pensano le rispettive compagne, soprattutto la prima moglie. Scusa, sono molto raffreddata. Sì, sì. Allora, siccome tu hai parlato di razionalizzare anche i rapporti affettivi, io penso che razionalizzare le condivisioni, le collaborazioni, si possa pensare a un co-housing. Allora, io penso a delle famiglie che si avvicinano, collaborano e condividono una parte di mansioni pratiche. Ma dividere i sentimenti a metà, e nell'espressione della prima moglie che dice io ho un mezzo marito, o nell'espressione della signora che mi ha preceduta, la quale accenna comunque a aspetti di gelosia, mi fa pensare che soprattutto da parte delle persone che hanno in qualche modo, che subiscono questa cosa, questo doppio rapporto, ci sia comunque un'incapacità di prendere una decisione. Perché vogliono in qualche modo, permettimi di semplificare, vogliono tutto. Alla fine nel momento in cui in un rapporto comincia a mancare qualche cosa, effettivamente c'è una parte che rimane comunque interessante, sì, che rimane piacevole. Però scusa, permetti Elisabetta, è corretto quello che dici? E ripeto, io sto semplicemente presentando qualcosa che intravedo come emergente, non mi sembra aver fatto né una scoperta né voglio impugnare ideologie, però noi stiamo ragionando ancora condizionati da quello che è un modello che condividiamo, che viviamo, che teniamo insieme a fatica, che con tutti i mille compromessi possibili consideriamo in questo momento l'unico possibile. Quello che mi piacerebbe capire oggi, se questo modello è un modello che tenderà a scomparire. Ciò che noi consideriamo cementato dal sentimento, cosa assolutamente irrazionale, imponderabile, immisurabile, non definibile con regole, con leggi, con regolamenti, in realtà si andrà spostando su un altro piano. Le persone si metteranno assieme perché innanzitutto hanno un progetto, non so, di costruire un nucleo di società. Poi, se all'interno di questo progetto come si gestiscono l'aspetto sentimentale, saranno affari loro, non saranno affari di chi pensa all'organizzazione sociale. Volevo però sentire in questo un'amica che forse ne sa qualcosa di più di me, ha un osservatorio più esteso. Monica Fabris, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Monica, ricordo, sociologa, presidente di GPF, Istituto di Ricerca e Consulenza Strategica sul Cambiamento Sociale. Ora so che tu sei, come me, attenta lettrice, analista di quello che dice Jacques Attali, che è un rinomato osservatore di quello che sarà il futuro, anche è titolato, che tende a dire che una certa flessibilità sentimentale che oggi avviene, si percepisce chiaramente negli strumenti di relazione informatici, ad esempio, diventerà naturalmente una regola per una società in cui anche l'economia sarà fortemente mutata da questa sorta di nomadismo relazionale. Cosa ne pensi te? Ma diciamo, c'è Attali, ma ci sono anche tanti altri osservatori che ci prefigurano dei nuovi modelli organizzativi. Ad esempio penso alle teorie degli antropologi che ci prefigurano delle unioni a contratto provvisorie che di volta in volta gli individui stabiliranno per risolvere singoli problemi contingenti. Attali invece prefigura proprio un quadro ancora più, diciamo, aperto, con molteplici relazioni, quello che chiama poliamore, che contraddistinguerà il nostro futuro. E il punto è che prevedere quali saranno veramente i nuovi modelli è altrettanto, diciamo, misterioso, difficile, oscuro che prevedere come finirà la crisi però finanziaria. Delle linee di tendenza le possiamo osservare. Assolutamente sì, ci sono alcune certezze e degli altri dubbi enormi. Quali sono le certezze? È che sicuramente l'istituzione del matrimonio come funzionale a un tipo di economia industriale è destinato a scomparire. Questo ce lo dicono le cifre chiaramente. Questo lo dico, scusa, come piccola premessa, ce ne sa, non voglio urtare nelle sensibilità, nelle ideologie, nei punti di pensiero, nelle visioni non soltanto pragmatiche dell'esistenza. Ciò che vive, esiste, è mantenuto e rispettato è fuori discussione, però bisogna gettare uno sguardo oltre, vedere cosa potrebbe accadere dopo. Assolutamente, anche perché è la realtà che ce lo dice, che i matrimoni stanno riducendosi, cioè basta vedere quello che sta avvenendo nelle nuove generazioni. Basta vedere i compagni di scuola dei nostri figli, c'è una percentuale altissima di persone che vivono con famiglie allargate, diverse, un po' col padre, un po' con la madre, un po' col nuovo papà, con la nuova mamma. Non si può fare a meno di non osservare questo fenomeno. Infatti, quello che sicuramente un'altra certezza riprende due delle parole usate dagli intervistati. La prima è quella del dialogo, cioè c'è un nuovo tema di trasparenza, di una nuova propensione a dialogare, a negoziare, a far emergere delle situazioni che prima rimanevano nell'ombra, che possono sfociare in una poligamia, ma possono essere anche sfociare in una famiglia ricomposta, in una separazione ragionata, in varie formule. E l'altra parola è sperimentazione, della seconda intervistata. Cioè, di fatto oggi la società, dal punto di vista dei legami affettivi e sentimentali, sta sperimentando. È quella che si chiama la coda lunga dei mercati e anche la coda lunga della società, nel senso che non c'è un modello. C'è il modello dei single, c'è il modello dei poligami, c'è il modello dei bigami. Ci sono tante forme diverse che corrispondono alla individualità di ciascuno e se qualcuna di queste si cristallizzerà in un modello in grado di coagulare la società, questo non siamo in grado di prevedere. Monica, posso chiederti una cortesia di restare in attesa soltanto un istante, che diamo le notizie della viabilità e ci sentiamo, perché mi sembra molto interessante capire quelli che sono gli elementi che ci portano a pensare che anche l'organizzazione sociale dovrà soggiacere alle regole della flessibilità che oggi sembrano inalienabili per un'infinità di nostre attività. Melog 2.0. ci ride sopra perché è molto superficiale, e ci ride sopra perché è superficiale, guarda magari con una punta di invidia, e c'è chi invece magari complimenta e ammira perché dice: sei stato te stesso e non sei stato strumentalizzato e non sei stato soggiogato dai pregiudizi, dai tabù, e sei stato te stesso. E parecchi mi hanno anche ammirato per essere se stessi, come conosco anche tanti conoscenti miei dove si trovano nella identica situazione e soffrono le pene dell'inferno proprio perché non sanno come venirne fuori. 800240024, sentite la storia del nostro ascoltatore, non è una storia felice, non è una storia serena, non è la formula della felicità applicabile come modello a chiunque. Lui è perfettamente consapevole che siamo in un momento passaggio in cui si ridefiniscono alcune situazioni, alcune organizzazioni, alcune maniere per relazionarci con il nostro prossimo che sembravano inalienabili, inossidabili, ma se guardiamo con uno sguardo indietro vediamo che in fondo sono esistiti altri modelli e, come per questo, esisteranno ancora altri modelli. Non si riesce a amare, cioè sentimentalmente, due donne. Io amo una donna, però sto bene con tutte e due. Solo che la seconda è quella che amo, la prima è quella che rispetto, dove se vuol lasciare, partire, andarsene è libera, se vuol rimanere rimane. E la seconda come fa a accettare una situazione del genere? La seconda è accettata una situazione del genere in quanto dopo lunghi discorsi, averne parlato, non era neanche giusto che una persona che era stata con te per tanti tanti anni ti risenti, questo è l'assegno mensile e vattene, e lasciarla nella profonda solitudine. Chissà, forse per la vecchiaia ci arriveremo a dormire, a russare tutti e tre senza far niente, però è logico che il sogno sarebbe quello lì. Già si prefigurano una vecchiaia serena, una vecchiaia da pensionati in cui si russa tutti e tre assieme, quindi è completamente metabolizzato, passato, superato tutto ciò che comporta il sotterfugio, che sopporta il compromesso, la sofferenza, però uno si immagina, pensa, spera che sia così. Monica Fabris, secondo te l'implacabilità dell'organizzazione dell'economia, i grandi movimenti e i moti sociali che cambiano, l'organizzazione urbanistica delle città potranno continuare a essere basati su un concetto così inafferrabile, così indefinibile, indecifrabile e incommensurabile come quello dell'amore? La coppia sta insieme per amore, ma se la coppia sta insieme per amore, può essere quello il modulo base di tutta la società? Ma sembra che la società si avvicini in un movimento che sembra quasi paradossale proprio all'amore, cioè la incertezza, l'apertura e la flessibilità che sta acquisendo il flusso dell'economia va sempre di più a assomigliare a quello dell'amore, che ha una durata limitata nel tempo, che tendenzialmente non è diciamo per sempre, ma è temporaneo, che non è imbrigliabile in uno schema, e così come anche il posto di lavoro non è per sempre né diciamo collocabile in un unico schema. Quindi, poi ha un diagramma non prevedibile con delle variabili che non possiamo assolutamente prevedere. Quindi il mondo economico e sociale risponde proprio in modo speculare e probabilmente lo causa anche questo cambiamento nelle abitudini e proprio anche nei modi di amare delle persone, che sono più liberi e più disposti a rimettersi in gioco. Sentiamo Giorgio. Giorgio, buongiorno. Sì, buondì. Mi sembra di aver capito, se non sbaglio, che anche lei fa parte di questo modello, per ora abbastanza sotto la superficie della visibilità, di cui stiamo parlando questa mattina. Sì, forse magari in un modo, ma penso anche più completo, perché se ho ben capito la storia l'ho sentita un po' a tratti, però mi sembra che è più un discorso di interessi, cioè questo signore sta assieme con due mogli, diciamo, ma ne ama una, e questo è vero che ho capito. Una la ama, diciamo, l'altra le vuol bene, la stima, con l'altra ha un rapporto, ha rapporti con entrambe le donne, vive il momento che sta con una e sua moglie a tutti gli effetti, questo io per invece, dire. Invece diciamo sto assieme, ho due mogli perché le amo tutte e due, nessuno non è mai riuscito a spiegarmi perché non è possibile fare questo. Ma vivete tutti e tre assieme? Certo, cioè viviamo, abbiamo vissuto tutti e tre assieme, diciamo anche nella stessa casa per un certo periodo, adesso viviamo in due case separate, però passiamo la giornata assieme e addirittura le vacanze assieme. E le due signore fra loro sono amiche, collaborano, certo, si spartiscono? Certo. Anche se non nascondo che, come dicevo appunto il signore prima, adesso non ricordo il nome, che non è una cosa facile, non è una cosa da consigliare a tutti. Certo è un rapporto intenso, un rapporto che ti tiene vivo, non devi lasciare niente al caso, devi stare sempre attento che tutto funzioni. Adesso sia molto sincero, in sì, questo triangolo quello a star meglio è lei o per le due signore è altrettanto gratificante? Ma io non star meglio. Cioè lei sta come un papa, mi sembra di capire. Ma io come un papa, io mi faccio in quattro per farle felici tutte e due, non è facile perché la mia felicità è la loro. E non è facile già quando si è in due, pensi in tre. E le dico sinceramente, non le nascondo, tutte e due loro dicono che preferirebbero stare da sole. Però si adattano. Una parola, ecco. Ultima parola, solo una battuta. Lei accetterebbe che un domani le si presentasse una delle sue due mogli tenendo per mano un secondo marito e dice da oggi c'è anche lui? Questa è la domanda che mi fanno tutti. Io così posso solo dirle di sì. Vabbè, lasciamo sfumato questo nuovo scenario futuro e vorrei sentire adesso però la professoressa Eva Cantarella. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Giurista, scrittrice, studiosa della cultura greca latina, autrice di Dammi mille baci, veri uomini e vere donne nell'antica Roma. Esiste un modello classico nel passato che in qualche maniera ci può ispirare rispetto a questa ricerca fantomatica e forse assurda negli esiti della coppia moderna? No, io credo che non esista un modello che ci possa ispirare, perché anche nell'antichità poi c'erano molti modelli, ecco, non è detto che, in questo momento parliamo di quella greca romana, dell'antichità greca romana, c'erano moltissimi modelli di amore e di famiglia. Credo che la cosa più importante che ci insegna appunto la storia è proprio questo, che questa idea che ogni tanto salta fortina e salta fuori, che questa la famiglia e si pensa a un certo tipo di famiglia, ancora oggi. Sì, io penso alle utopie sulle comuni degli anni 60, gli hippie, tutte cose fallitissime che hanno dato lavoro agli psichiatri più che altro. Ecco. Sì, fallitissime. Nello stesso tempo anche la riproposizione del modello della famiglia nucleare, molto spesso ancora succede, no? Come dell'unico modello di famiglia, e anche questo, ecco, è un'altra cosa che tra l'altro la storia ci dimostra che non è vero, perché non è questo ovviamente, anche all'interno della storia occidentale nostra, non è l'unico modello di famiglia. Pensiamo per esempio a Roma, ecco, per fare un esempio, anche i greci, ma comunque i romani sono più interessanti forse da questo punto di vista. L'idea della famiglia romana è strettamente monogamica, però ecco, i romani erano monogami, erano poligami se vogliamo, non in parallelo ma in serie, cioè io dico che anche oggi, insomma, nella società di oggi noi siamo monogami, non lo so, quando c'è possibilità di risposarsi varie volte nel corso della vita c'è una poligamia seriale, no, in questo senso. Poi siamo anche multitask nella nostra possibilità di essere contemporaneamente tante cose, siamo sinceri. Certo. Poi il modello di famiglia, ovviamente, pensi a Roma coesistevano un modello di famiglia patriarcale dove il pater familias, ecco, dove la sottoposizione al padre non era legata, non erano legami di affetto quelli che tenevano unita la famiglia, ma erano poteri fortissimi di un pater familias su figli, tutti i discendenti, le mogli sue e le mogli dei figli, più gli schiavi, quindi era una situazione, una cosa completamente diversa. Quello che oggi diremmo una grande famiglia patriarcale di un secolo fa, ecco. Sì, però con poteri diversi ancora, perché solamente il pater familias aveva la capacità giuridica, vale a dire la capacità patrimoniale. Tutti gli altri non avevano, finché avevano un ascendente maschio in vita, non avevano una lira che fosse loro. Beh, diciamo, nel modello proposto dal nostro ascoltatore qualcosa di simile c'è, perché in realtà lui, non risolvendo il rapporto matrimoniale con la prima moglie, in realtà non ha nessun diritto giuridico oltre a quello il fatto che l'ha sposata, e il subentrare della seconda moglie in questo ménage, già dividersi le pensioni e pensare al futuro, fa pensare che forse potrebbe essere qualcosa di simile il modello a cui potenzialmente, in maniera del tutto ipotetica, potrebbe tendere. Senta, professoressa Cantarella, io so che il suo libro proprio sull'organizzazione familiare dell'antica Roma, esce fra qualche giorno, il 25 aprile. Se lei fosse d'accordo, la richiamerei a parlarne in maniera più approfondita. Grazie, visto che mi piacerebbe analizzare ancora più profondamente i modelli del passato e alla luce di quelli magari cercare di intuire e prevedere quelle che potrebbero essere le linee del futuro. Quindi la ringrazio e la saluto. Ringrazio e saluto anche Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti. L'appuntamento è a lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.